alla convalida degli arresti, per il momento si sta discutendo questo. Il processo è cominciato molto molto tardi, l'udienza è cominciata molto molto tardi, perché non erano i primi, diciamo, della lista. Dopodiché è cominciato, è stato successivamente interrotto per una mezz'ora, tre quarti d'ora, perché erano alla ricerca di un interprete dall'arabo all'italiano, perché una delle quattro persone arrestate è appunto una persona araba, e quindi c'era necessità di questo, di un interprete. E al momento non abbiamo grandi novità. Vi posso dire che il presidio qui è decisamente numeroso e molto partecipato, chiaramente col passare delle ore è cresciuto decisamente come numeri. E rimaniamo qua in attesa di sapere l'esito, chiaramente, della giornata di oggi e dell'udienza di convalida, nella speranza che chiaramente non vengano convalidati questi arresti e che i nostri compagni vengano immediatamente rilasciati. E credo che poi tutti e tutti sappiano un po' quello che è successo ieri. È stata una giornata pesante per i movimenti di lotta per la casa. Questi arresti sono avvenuti quando appunto compagni e compagne dei movimenti di lotta per la casa, sia del BPM che del Coordinamento Cittadino Lotta per la Casa, hanno organizzato un'iniziativa presso il CIPE, in solidarietà con i movimenti NoTav. Diciamo che la giornata è andata malissimo da subito, cioè hanno subito delle cariche violente e pesanti da parte delle forze dell'ordine che erano lì, sono stati circondati, sono stati schedati e poi sono stati appunto fermati questi quattro compagni. Contemporaneamente nella giornata, e anche, come dire, collegato dalle stesse forze dell'ordine, nelle stesse ore, negli stessi minuti, è stato sgomberato il presidio che il Coordinamento Cittadino e Lotta per la Casa ha dato vita a via Boglione, presso una delle tante aree di proprietà del demanio lasciata al abbandono e al disuso, eppure lì appunto con l'intervento questa volta della Guardia di Finanza c'è stato lo sgombero e l'identificazione delle 35 famiglie che erano presenti in quel momento al presidio. La giornata quindi è stata lunga e pesante, in ultimo si è conclusa col tentativo di sgombero del casal, viene sempre Bertone, ma non è casal Bertone, dell'occupazione, quella del BPM in zona sempre Roma Nord, quarto municipio. Per fortuna lì la forte determinazione comunque delle famiglie occupanti ha impedito lo sgombero, e quindi nonostante lacrimogeni che venivano comunque gettati dagli elicotteri, perché gli occupanti si erano assediati sul tetto, le forze dell'ordine hanno rinunciato a effettuare questa ennesima mossa della giornata. Insomma, questo era un po' per ribadire un po' tutto quello che è successo nella giornata di ieri. Ok, allora senti, se sapete qualcosa si poteva fare uno squillo più tardi, visto che non si sa che ora si saprà più o meno la convalida. Guarda, io credo che in questo momento stanno sentendo le forze dell'ordine, gli agenti e il commissario del commissariato Trevi, quindi quello che ha condotto l'arresto, insomma, che ha condotto l'arresto. Non so quindi a che ora finirà, probabilmente se dovesse finire male non ci saranno neanche più tempi per fare una direttissima, quindi così insomma potrebbe succedere se non finisce bene, quindi se convalidano gli arresti che i nostri compagni vengano tradotti immediatamente in carcere per poi aspettare la direttissima magari lunedì. Intanto speriamo bene, speriamo che questa cosa non succeda. E se posso, insomma, rilancio ulteriormente l'appuntamento intanto per le 3 al Volturno per un'assemblea cittadina, nella speranza che sia un momento di festa, insomma, di organizzazione della lotta, e stabilire un po' quelli che possono essere i prossimi passaggi.